Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Autostrade, ex vertici della società in manette per attentato alla sicurezza in un filone d'inchiesta parallelo a quello del crollo del Morandi. I parenti delle vittime, per noi oggi un giorno importante per questa società, non può esserci fiducia. Emergenza Covid, Veneto, Campania, Emilia-Romagna e Friuli, regioni a rischio stretta. Azzolina, faremo di tutto per tenere aperte le scuole. Il vaccino Pfizer-BioNTech, via libera della Commissione Europea al contratto d'acquisto per 300 milioni di dosi. Calcio, stasera amichevole della Nazionale contro l'Estonia, scelte tecniche condizionate dalle ASL, in panchina il vice CT Evani. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano ancora gli sviluppi delle inchieste su Autostrade con le 6 misure di fermo eseguite oggi dalla Guardia di Finanza nei confronti degli ex vertici e anche degli attuali manager di Autostrade per l'Italia. Le accuse ipotizzate sono attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. Ai domiciliari anche l'ex AD Giovanni Castellucci. Si tratta di un'inchiesta, questa, che è un filone dell'inchiesta principale sul crollo del ponte Morandi. Poco fa la conferenza stampa degli inquirenti con il nostro Andrea Ferro. Andrea. Sì, Alessio, il nome eccellente è quello di Giovanni Castellucci, amministratore delegato della società fino al gennaio del 2019, quando fu liquidato con una cifra vicina ai 13 milioni di euro. Ai domiciliari è accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. Stessa ipotesi di reato contestata all'ex responsabile manutenzioni Michele Donferri Mitelli e all'ex direttore centrale operativo dell'azienda Paolo Berti. Nei confronti degli altri tre indagati, tra i quali due dirigenti di Autostrade in carica, è scattata l'interdizione per 12 mesi. È un filone parallelo all'inchiesta sul crollo del ponte Morandi, filone che riguarda l'installazione tra il 2016 e il 2017 di barriere fonoassorbenti lungo la rete Ligure, inchiesta partita analizzando i documenti relativi a due episodi di cedimento, come ci spiega il colonnello della finanza Ivan Bixio, che ha condotto le indagini. A seguito di questi cedimenti, i dirigenti che all'epoca si occupavano della questione avevano effettuato gli approfondimenti anche tecnici sulle cause, pervenendo alla conclusione che vi era stato un problema di un difetto progettuale di fondo, di sottostima del vento e l'utilizzo di materiali non conformi. Sulla base di questo sono state adottate poi delle soluzioni e degli accorgimenti che non mettevano pienamente in sicurezza le strutture, le barriere, quindi con il rischio che ulteriori cedimenti potessero avvenire. Ci sono delle indagini tecniche, sono sia intercettazioni telefoniche e delle registrazioni audio di queste riunioni di approfondimento sulle cause di cedimento delle barriere che sono state trovate in alcuni smartphone di partecipanti a questa riunione e quindi sono state molto utili, perché parliamo di registrazioni del 2017, perché ricostruiscono un po' tutte quelle sono state i confronti, le dinamiche, le decisioni, gli approfondimenti, eccetera. Nell'ordinanza si spiega Autostrade non avrebbe sostituito le barriere per risparmiare, barriere che dall'inverno scorso sono state rimosse appunto a seguito dell'apertura del fascicolo da parte della Procura. Con una nota Autostrade ha fatto sapere che si trattava di barriere presenti su 60 dei 3.000 chilometri della rete. Per il momento dalla Procura di Genova è tutto, ti restituisco la linea. Grazie al nostro Andrea Ferro e adesso allarghiamo lo sguardo perché il nodo concessioni Autostrade torna al centro del dibattito politico dopo questo sviluppo dell'inchiesta e dopo il coinvolgimento della figura di Castellucci per anni alla guida della concessionaria. L'accelerazione impressa stamane dall'operazione eseguita dalla Guardia di Finanza, per quanto legata non direttamente al crollo del ponte Morandi ma alla non idoneità dei pannelli fonoassorbenti, riapre di fatto tra le forze politiche il nodo concessioni autostradali. A rivendicare la posizione della prima ora per una revoca il Movimento 5 Stelle. Quanto emerge dalle inchieste, scrivono allora i parlamentari pentastellati, ci spinge a lavorare con maggiore forza per togliere Autostrade dalle mani di chi l'ha gestita nel tempo come un bancomat. Auto nella maggioranza il PD con fonti di Via del Nazareno che rimandano a quanto deciderà il mercato nell'operazione Autostrade Cassa Depositi e Prestiti. Gli arresti domiciliari intanto segnano per il momento uno stop all'immagine di Giovanni Castellucci, manager in ascesa per anni, capace secondo alcuni di creare in quasi due decenni un sistema di relazioni tale da influenzare anche il rapporto con il Ministero Vigilante, un rapporto quello di Castellucci solido per anni anche con la famiglia Benetton che controlla Autostrade. strade attraverso Atlantia fino al gelo che ha portato alle sue dimissioni e l'azienda a congelare buonuscita e trattamento di fine rapporto. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora in primo piano torna l'emergenza Covid dopo queste notizie su autostrade, di cui parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. In Senato è cominciata la discussione sulla proroga dello stato d'emergenza, con anche l'intervento di Giuseppe Conte. Vediamo se siamo in collegamento con Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno Elisabetta. Sì Alessio, allora il premier Giuseppe Conte lavora per evitare il lockdown, lo ha detto chiaramente anche alla stampa, ma intanto, come dicevi tu, in Senato si vota la proroga per l'emergenza Covid e il premier riunisce i capi delegazioni dei partiti della maggioranza, il ministro Boccia e il sottosegretario Fraccaro, per discutere non solo i dati del monitoraggio sul Covid ma anche la legge di bilancio e il recovery plan italiano. E preoccupa la situazione della Campania, secondo il Movimento 5 Stelle presenta delle criticità, è evidente che la regione non possa restare in zona gialla. Ma intanto al Senato si discute la proroga dell'emergenza Covid, che potrebbe allungare i termini dello stato di emergenza proclamato in 11 regioni dopo le alluvioni del 2018. Questo prevede un emendamento al decreto legge presentato dalla senatrice PD Valeria Valente. La proroga non comporterebbe ulteriori oneri per lo Stato, per le attività e per le relative spese si procede con risorse già stanziate. A te Alessio. Grazie Elisabetta. E allora venerdì sarà il giorno della verità. Il ministro della Salute Speranza firmerà le nuove ordinanze elevando ad arancioni o rosse altre regioni, questo almeno nelle attese, mentre all'inizio della settimana prossima il governo farà il punto sull'impatto delle misure per capire se saranno state sufficienti a contenere l'epidemia, il tutto seguendo giorno per giorno l'andamento proprio dell'epidemia. Sentiamo. Sono 284 i medici e gli infermieri contagiati dal coronavirus nei 7 ospedali di Varese. Il triangolo Varese, Como, Monza sta subendo quello che è successo a Bergamo nella prima ondata, ha sintetizzato il direttore sanitario dell'ospedale Valduce di Como, Claudio Zanon. Città e sindaci in prima linea chiedono aiuto e in alcuni casi anche l'intervento dell'esercito, come sta accadendo nel Casertano. In una lettera firmata dai primi cittadini di 19 comuni, in primis di Aversa e dell'Agro Aversano, viene chiesto al governo l'invio dei militari. I sindaci lamentano ritardi nei tamponi, nei ricoveri e nell'assistenza. Sono al lavoro intanto gli ispettori del Ministero della Salute e i carabinieri del NAS in 4 ospedali di Napoli per passare i raggi X, i dati sul coronavirus. Il sindaco di Napoli De Magistris è in netto contrasto col governatore De Luca, che chiede che la Campania resti zona gialla. Promette De Magistris decisioni, dice, clamorose, per far capire al governo che c'è una questione Campania molto seria. La replica del sottosegretario del Ministero dell'Interno Variati ai nostri microfoni. Lo Stato è sul campo, nel fine settimana darà una mano ancora più forte ai sindaci perché le loro ordinanze, laddove vengano prese, vengano poi ovviamente adempiute fino in fondo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo all'estero con la notizia di pochi minuti fa: una bomba è esplosa a Jeddah in Arabia Saudita. Si tratterebbe di un attentato. Oltre al console francese, che sarebbe stato il principale bersaglio di questo attentato durante una cerimonia al cimitero non musulmano della città, erano presenti anche altri diversi diplomatici europei. Stando alle prime notizie, si tratterebbe del secondo attentato contro interessi francesi a Jeddah dopo quello del 29 ottobre scorso e dopo la pubblicazione delle caricature di Maometto su Charlie Hebdo. Andiamo a Bruxelles, dove pochi minuti fa è arrivata la conferma con la firma da parte del Collegio dei Commissari per il contratto d'acquisto di 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech. Costruire le fondamenta dell'Unione della Salute è il tema della riunione del Collegio dei Commissari Europei di questa mattina, al centro della quale c'è stato anche il via libera al contratto con BioNTech Pfizer per assicurarsi il vaccino anti-Covid. Si autorizza un acquisto massimo di 300 milioni di dosi e, poiché la ripartizione tra paesi avviene sulla base della popolazione di ciascuno Stato membro, per l'Italia si tradurrà nella disponibilità di 40 milioni di dosi, ma il numero potrebbe aumentare se altri dovessero rinunciare alle loro quote. Abbiamo bisogno di un ampio portafoglio di vaccini basati su diverse tecnologie, ha ricordato intanto la presidente della Commissione von der Leyen, e questo è il quarto contratto che firmiamo con un'azienda farmaceutica per i vaccini. Abbiamo già iniziato a lavorare con gli Stati membri per preparare campagne di vaccinazione nazionali, ha detto ancora von der Leyen. Nel frattempo dobbiamo essere prudenti e stare al sicuro. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore. L'innovazione digitale al centro del piano italiano del Recovery Fund come chiave per la crescita, lo sostiene Confindustria Digitale, che lancia anche una proposta di governance straordinaria proprio per gestire i fondi europei. Il forte ritardo dell'Italia nel digitale, 25esimo posto su 28 paesi europei nell'indice DESI, è in parte su banda larga e servizi e molto nelle scarse competenze digitali degli italiani. Un ritardo messo in evidenza dalla pandemia, soprattutto nella pubblica amministrazione, e per questo Confindustria Digitale nel suo convegno annuale lancia una proposta per non sprecare il ruolo chiave che potrà avere il Recovery Fund nella crescita digitale dell'Italia. Il Presidente Cesare Avenia. Che ci sia una governance centralizzata che abbia anche lo scopo tecnico-operativo di seguire l'attuazione di questi progetti, una sorta di alto commissariato. Una proposta che il presidente di Confindustria Carlo Bonomi estende a tutto il piano con i fondi del Recovery. Un unico fondo Recovery in cui inserire le risorse senza spacchettarle tra i ministeri e di una governance unitaria, direttamente collegata alla Presidenza del Consiglio, che sappia mettere in sinergia i diversi livelli istituzionali coinvolti. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. 13:11 minuti, siamo allo sport con il calcio. Stasera l'amichevole a Firenze degli Azzurri e di Mancini, che ospitano l'Estonia, ma senza Mancini. Un CT in remoto, ci tocca vedere pure questo nei tempi difficili della pandemia. Un'Italia allenata a distanza da Roberto Mancini, positivo al Covid e quindi in isolamento fiduciario in attesa di tampone negativo. E allora sotto di TV, smartphone e app varie col fido Alberico Evani, che stasera sarà titolare in panchina al posto del Mancio. La tecnologia che questo ci aiuta è come se fosse qui con noi e c'è un confronto come c'è sempre stato quando lui era presente. Test certo non improbo quello di stasera al Franchi contro l'Estonia, ma utile comunque per far la gamba in vista delle gare di Nations League domenica sera a Reggio Emilia con la Polonia e mercoledì in Bosnia. Per un gruppo azzurro falcidiato da infortuni, Covid e interventi a macchia di leopardo delle varie ASL a bloccare l'approdo in squadra di alcuni convocati. Un percorso a ostacoli in fondo al quale Mancini vuole però trovare i punti per il primo posto nel girone di Nations e per il ranking FIFA. Dario Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore. 13:12 minuti, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dall'emergenza Covid. Ieri l'ospedale San Raffaele ha smentito con una nota, un tweet del professor Burioni sulla gravità della situazione dei ricoveri in quell'ospedale. Allora noi cerchiamo davvero di fare chiarezza senza pregiudizi, senza paraocchi. Ci collegheremo con un ospedale al fronte di quella che il vice ministro Sileri chiama la guerra al Covid. Parliamo dell'Humanitas, pronto soccorso alle porte di Milano. Sentiamo come sta andando la situazione. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco. Promo 24. La sostenibilità è un valore imprescindibile per la filiera del vending italiano. I distributori automatici di alimenti da anni sono energy saving, con un'offerta sempre più ampia e di qualità, prodotti ecosostenibili e packaging attenti all'ambiente. La gestione dei rifiuti è garantita dal progetto Revending, un circuito di raccolta e riciclo di bicchieri, palette e bottiglie in PET. Vivi la tua pausa sostenibile negli oltre 800.000 distributori automatici presenti in tutta Italia. Vending Sostenibile è un progetto di Confida, Associazione Italiana Distribuzione Automatica. www.vendingsostenibile.com. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi. Autostrade, ex vertici in manette avrebbero risparmiato sulle barriere mettendo a rischio la sicurezza. Emergenza Covid, Veneto, Campania, Emilia Romagna, Friuli, le regioni a rischio stretto. Conte verso la proroga dello stato d'emergenza, Azzolina, faremo di tutto per tenere aperte le scuole. Calcio, stasera l'amichevole della nazionale contro l'Estonia, in panchina il vice CT Evani. Allora, oggi iniziamo la seconda parte di Effetto Giorno con cercando di fare un punto sulla situazione negli ospedali, diciamo un punto sulla situazione al fronte di quello che il vice ministro Sileri chiama la guerra al Covid. Lo facciamo perché continuano a esserci comunque delle incertezze, dei dubbi alimentati dai dati da una parte, con regioni con ospedali pieni, come per esempio la Campania, con siamo sopra soglia di saturazione delle terapie intensive, che sono ancora regione gialla, regioni invece come la Calabria che hanno un basso tasso di saturazione delle terapie intensive, 15%, che sono regioni rosse. Sappiamo che ci sono delle motivazioni per cui tutto questo accade, però i dubbi sono alimentati anche dalle dichiarazioni. Ieri ancora un noto ospedale ha dovuto prendere le distanze dalle dichiarazioni di un noto professore televisivo, dicendo che le sue dichiarazioni allarmistiche non corrispondono alla realtà clinica di quell'ospedale. Allora, noi vogliamo fare un po' di chiarezza, ne parliamo con Antonio Vozza, che è responsabile del pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano. Buongiorno Vozza, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. È responsabile anche del reparto Covid dell'Humanitas. Allora, Vozza, azzeriamo tutte queste polemiche, questi ragionamenti, però ci racconti invece com'è la situazione da voi, qual è la situazione da voi? Allora, la situazione da noi, essendo di fatto l'interfaccia tra l'utenza e quindi i pazienti e l'ospedale, è una situazione sicuramente di forte stress, di forte pressione. Questo è fisiologico da una parte, e dall'altra ovviamente sono diverse le motivazioni che hanno portato a questa situazione. Sicuramente rispetto al mese di marzo noi andiamo a intercettare i pazienti molto prima, e questo è un vantaggio ovviamente, perché questo porta ad una prognosi e ad una gestione del paziente molto migliore. È un dato di fatto che i pazienti che vanno in terapia intensiva sono il 10% dei pazienti che andiamo a ricoverare, quindi completamente diversa è la percentuale dei pazienti che invece prima andavano in terapia. Perché era più alta questa percentuale, di quanto molto era? Più alta, molto più alta, molto più alta. Si attestava anche intorno al 30% in alcune circostanze. E questa è una buona notizia. Sì, certo. È chiaro che questo porta di default anche ad un stress test per gli ospedali, perché se è vero che arrivano prima e devono essere curati e sono sicuramente meno gravi rispetto a marzo, è altrettanto vero che la numerosità è decisamente maggiore rispetto a prima, e quindi tutti gli ospedali sono in un grosso stress. Ecco, questo che lei ci ha raccontato, che ci ha descritto, è molto chiaro. C'è il rischio di una sovrapposizione con l'influenza di stagione, dato che per esempio i vaccini in alcune regioni, tra cui anche in Lombardia, sono un po' in ritardo? C'è questo rischio, si sta già verificando, ne parlava qualche giorno fa il Presidente dell'Ordine dei Medici Anelli, diceva attenzione perché tra un po' si sommerà anche l'influenza di stagione. È legittimo come preoccupazione, tenga conto che noi al momento, dai primi di ottobre, comunque tutti i pazienti che hanno una sintomatologia compatibile non solo con un'infezione da Covid, ma anche da H1N1, quindi dalla sindrome influenzale, dall'influenza, facciamo il test duplice. Al momento, sì, sinceramente, casi che portano una positività per pazienti per influenza in concomitanza o quantomeno anche solo per influenza non ne abbiamo riscontrati al momento. Sicuramente, magari andando avanti con la stagione più rigida, ovviamente potremmo avere anche questo overlap. Senta, professor Vozza, lei è stato molto chiaro, ha detto insomma la situazione rispetto a marzo non è la stessa, è meno grave, arrivano più pazienti meno gravi perché poi vengono intercettati prima, una percentuale più bassa finisce in terapia intensiva, e questa è una buona notizia. Però le voglio chiedere, tenendo conto anche che diciamo la crescita, l'accelerazione in questi ultimi giorni, si sta notando un rallentamento dell'accelerazione, non una diminuzione, ma insomma non stanno crescendo così tanto come nei giorni scorsi i casi. Quanto tempo avete di fronte a voi in questa, diciamo, partendo da questa situazione, prima che la situazione diventi ingestibile, se posso usare questa espressione? Allora, tengo conto che questa patologia ci ha insegnato che proiezioni anche a medio termine non possono essere fatte con notevole attendibilità. perché le curve possono rapidamente declinare o possono avere dei picchi inaspettati e inattesi, indipendentemente da quelle che possono essere poi le decisioni dal punto di vista amministrativo su chiusure, lockdown o quant'altro. Io le dico che al momento, se c'è una stabilità, un plateau da questo punto di vista, e noi dovremmo aspettarci di fatto una decrescere della curva nei prossimi 7, massimo 10 giorni, il sistema può ancora reggere e tenere, soprattutto se si sta organizzando come stanno facendo anche con quantomeno in Lombardia, con una notevole collaborazione anche delle strutture SPOC, delle strutture a più bassa complessità che dovrebbero sostanzialmente diciamo così, decongestionare le strutture a più grossa complessità come la nostra. Se questo sistema regge ci aspettiamo che nei prossimi 7-10 giorni ci deve essere un decremento della curva di crescita, allora, no. Ovviamente chi sarà più avvantaggiato non lo saranno le strutture ospedaliere, perché avranno ancora una curva di almeno 2-3 settimane, ma è un dato di fatto che potremmo superare questa fase senza avere le criticità vissute in marzo e aprile. Un'ultimissima cosa davvero, per quanto riguarda l'età media, anche questo è un tema molto discusso, no? Dei vostri ricoverati, diciamo quelli che si aggravano e che poi richiedono per esempio ricorso alla terapia intensiva, è cambiato qualcosa rispetto a marzo? Qual è l'età media, se ha un dato di riferimento? Allora, la nostra età media è intorno ai 70-71 anni dei pazienti ricoverati. È vero che quelli con più comorbidità e con età più avanzata hanno un quadro più compromesso, più critico, e quindi è più facile che necessitino di cure intensive. Ci sono, ma sono sicuramente minori come numerosità, casi di pazienti giovani, quindi al di sotto dei 60 anni, che hanno bisogno di essere intubati, che hanno bisogno di ventilazione non invasiva, che hanno bisogno di cure altamente intensive. Ma la percentuale, la criticità più grossa è nel paziente ultra 75enne. Grazie davvero, dottor Vozza, responsabile del pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Adesso alle 13:25 minuti è con noi Paolo Rodari, giornalista vaticanista di Repubblica. Ben ritrovato Paolo. Buongiorno, buongiorno. Allora, per parlare di sviluppi sulla questione della pedofilia nella Chiesa, io citerei questa dichiarazione esaustiva di oggi di Papa Francesco al termine dell'udienza generale, perché diciamo riassume quello che è successo. Ieri, ha detto il Papa, è stato pubblicato un rapporto sul doloroso caso dell'ex cardinale Theodore McCarrick. Rinnovo la mia vicinanza alle vittime di ogni abuso e l'impegno della Chiesa per sradicare questo male. Cosa era successo? Che questo alto prelato, era, nonostante anni e anni di abusi, era riuscito anche ad essere nominato poi cardinale addirittura da Wojtyla. Adesso però il Vaticano il Papa ha deciso di pubblicare questo ampio rapporto con tutto quello che era stato tenuto nascosto sin qua. Cosa rivela, Paolo, questo rapporto? Perché è così importante? Ma questo rapporto è importante perché viene dopo le accuse che l'ex nunzio a Washington, Viganò, ha fatto al Papa chiedendogli di dimettersi circa una sua presunta omertà proprio su McCarrick. E svela in realtà che Bergoglio ha agito nei confronti di McCarrick dimettendo dallo stato clericale nel momento in cui un paio di anni fa è venuta fuori la notizia che McCarrick negli anni 70 aveva abusato di un minore. Prima questa notizia non si sapeva, ma soprattutto è emerso che la carriera ecclesiastica di McCarrick è stata favorita da una omertà, questa sì, presente all'interno della Chiesa, in particolare della Chiesa americana. Tra i vescovi statunitensi non hanno detto tutto su McCarrick quando Wojtyla chiese loro notizie, e nello stesso tempo questa omertà è dello stesso McCarrick che mandò una lettera al segretario di Giovanni Paolo II, Stanislaw Jiwisz, giurandogli che non aveva, che tutte le voci su una doppia vita che giravano su di lui, quindi non soltanto abusi ma anche rapporti sessuali con giovani adulti, erano false. E sostanzialmente il Vaticano, non avendo altre prove, si fidò di questa versione, e quindi lui fece questa carriera, e quindi il rapporto è importante perché svela come McCarrick è arrivato a essere cardinale, perché Bergoglio soltanto, la Chiesa soltanto 2 anni fa l'ha dimesso dallo stato clericale. Citavi la figura di Dziwisz, diciamo esponente di alto livello polacco, che entra anche in questa vicenda, accusato proprio in questi giorni di avere coperto a Papa Wojtyla, di cui allora era uno stretto collaboratore, come dicevi tu, tutta una serie di casi anche di pedofilia. Che figura è questa qua di Dziwisz? Dziwisz è un prelato che nel pontificato di Wojtyla ovviamente era molto importante, perché era suo segretario, soprattutto negli ultimi anni in cui Giovanni Paolo II non stava bene fisicamente, era ovviamente una figura decisiva anche per la voce del Papa e per le decisioni del Papa. In quegli anni la pedofilia nella Chiesa non esisteva, nel senso che non se ne parlava, ovviamente esisteva, ma non se ne parlava. E quindi non parlandosene, nessuno ne parlava, e quindi i casi di copertura furono tanti e molteplici, anche nel pontificato di Giovanni Paolo II in particolar modo, probabilmente anche nei pontificati precedenti. E Dziwisz probabilmente ha agito in modo inopportuno su diversi casi. Sicuramente è noto il caso di padre Massiel, il fondatore dei Legionari di Cristo, che quando è morto si è scoperto avesse invece una doppia vita molto importante. E quindi è stata una figura molto potente che probabilmente, anzi senz'altro, in quegli anni ha agito in modo, diciamo, quantomeno inopportuno su diversi casi. Grazie Paolo Lodari per essere stato con noi. Allora, questa era la vicenda che riguardava le notizie dal Vaticano sul fronte della pedofilia e della lotta intrapresa da Papa Francesco nei confronti, come avete sentito, anche del Cardinal McCarrick. 13:29 minuti, noi facciamo un piccolo break, poi torneremo tra poco dopo le informazioni di borsa in diretta e cercheremo di capire con Maurizio Caprino la gravità di queste accuse emerse nei confronti dei vertici di Autostrada su queste barriere fonoassorbenti non messe in sicurezza, che mettevano a rischio addirittura le strade e l'incolumità degli automobilisti. Poi anche le ricadute sul noto dossier Autostrada. Tra poco. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi. Autostrade, ex vertici, manette per attentato alla sicurezza, un filone di inchiesta parallelo a quello per il crollo del Morandi. I parenti delle vittime, per noi oggi un giorno importante. Emergenza Covid, Veneto, Campania, Emilia Romagna, Friuli, le regioni a rischio stretta, Azzolina, faremo di tutto per tenere aperte le scuole. Calcio, stasera amichevole della Nazionale contro l'Estonia, in panchina il vice CT Evani. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. Allora, uno sguardo al volo ai vostri messaggi al 349-238-6666. C'è un ascoltatore che chiede, in riferimento all'intervista con Vozza, il responsabile del pronto soccorso dell'Humanitas, che parlava dell'età media dei ricoverati, 70-71 l'età media dei ricoverati in questo momento al pronto soccorso dell'Humanitas per il Covid. Scusi, dice questo ascoltatore, giovani sotto i 70 anni, ha detto bene o ho capito male io? No, hai capito male tu, perché ha detto 70-71 e poi c'è anche qualcuno più giovane sotto i 60 anni, effettivamente. Ora, è vero che questa terminologia può sembrare un po', ormai un po' strana, bisognerà riscrivere l'uso delle parole, perché uno sotto 60 anni, di 59 anni, definirlo giovane è strano. Però anche definirlo anziano è strano, quindi fate un po' come vi pare. Comunque la media dei ricoverati è 70 anni, e però ce ne sono, ha detto Vozza, a parte gli scherzi, anche tanti in gravi condizioni sotto i 60 anni, che vuol dire anche 40-50 anni. Ancora emergenza Covid con il vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Il Covid, così come toglie gusto e olfatto, toglie anche la possibilità di parlare d'altro. È argomento onnivoro e angosciante, ma non bisogna rinunciare a guardare oltre quei dati. Ieri la Corte dei Conti europea ci ha messo di fronte ad altri numeri. Ad esempio che l'Italia nel 2017 ha speso il 30% dei fondi europei contro una media del 40% dell'Unione. Credevamo di essere migliorati, ma non è così. Ci ha pensato il ministro per il Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano, a chiarire. Da febbraio ad agosto di quest'anno gli impegni sono cresciuti dal 60,5 al 69,2% e i pagamenti dal 31,7 al 39,2%. Ci sono ritardi vari, evidentemente regionali e nazionali. È un'Italia variopinta quella dei progetti finanziati dai fondi europei, ma per lo più tendente al rosso. Non il rosso lockdown, ma il rosso dell'insufficienza. E ancora una volta la fotografia di quanto siano inefficienti le burocrazie pubbliche nel programmare e nell'investire. Un segnale d'allarme tragico, perché in pochi mesi dobbiamo cambiare rotta per gestire i 209 miliardi del Recovery Fund europeo, cui è affidato peraltro il futuro del paese. Di come vadano organizzati i piani di investimento non si parla più. Cresce invece, sussidio dopo sussidio, l'idea che il debito non sia più un problema proprio perché possiamo contare su quella montagna di denaro europeo. Naturalmente, nulla di più sbagliato, è solo un tragico abbaglio. Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ben ritrovato Maurizio. Allora, questione autostrade, la faccio corta perché ne abbiamo parlato molto nella prima parte con la cronaca, insomma ci sono sei misure di fermo, c'è anche il nome pesante dell'ex amministratore delegato Castellucci, ma anche quello del responsabile delle manutenzioni, ex responsabile, del direttore centrale operativo. È un filone parallelo questo dell'inchiesta più importante, quella che riguarda il crollo, però che inchiesta è, Maurizio, questa? Ma è un'inchiesta che è nata proprio dal crollo, perché la Guardia di Finanza, rovistando insomma fra le carte che riguardavano il crollo del Morandi, è incappata in questa vicenda delle barriere di sicurezza Integautos. Cosa sono queste barriere? Sono quei grandi pannelli fonoassorbenti che abbiamo visto proliferare nell'ultimo decennio sulle autostrade italiane. In questo caso sono barriere che hanno anche una funzione di sicurezza, perché sostituiscono i guardrail dei New Jersey. Erano barriere non a norma, anche montate male, progettate forse anche peggio. Questo lo si sapeva da un anno circa, lo avevamo anche detto, scritto ampiamente. Adesso cosa succede? Perché proprio adesso queste misure cautelari? Perché emerge che probabilmente almeno Castellucci, se non anche gli altri due ex dirigenti, quindi Berti e Don Ferri, avevano ancora una capacità di inquinare le prove, con rapporti anche all'interno di Autostrade per l'Italia, che diciamo da più di un anno a questa parte sta rivendicando invece la propria estraneità alla vecchia gestione. E sono 106 pagine di ordinanza, quella del GIP che ha fatto eseguire queste misure cautelari. Sono ordinanze da cui emergono anche intercettazioni, episodi che confermano un sistema, l'esistenza di un sistema di relazioni fatto di sottovalutazione del rischio, massimizzazione dei profitti e dove è necessario anche andare a utilizzare contatti privilegiati anche con persone esterne alla società, ma molto molto potenti e influenti. Sullo sfondo emerge anche il ruolo dei Benetton sulla distribuzione degli utili, dei profitti. Quindi è un'inchiesta sicuramente parallela, un'inchiesta, un rivolo che però se è arrivato a queste misure di sicurezza, misure cautelari, probabilmente è molto significativo. È un rivolo importante. Allora, c'è una dichiarazione poco fa di Egle Possetti, portavoce del Comitato delle Vittime del Morandi, che dice: per noi è una giornata estremamente importante. Dice naturalmente tutta una serie di altre cose, poi conferma il fatto che verso questa società Autostrade non può esserci fiducia più da parte loro, proprio per tutto quello che sta emergendo. Maurizio Caprino, quali potrebbero essere le ulteriori, se necessario, ricadute anche di questa, cose che sono emerse oggi? Si sapevano, tu dicevi, ma oggi c'è un sigillo della magistratura abbastanza importante sul dossier, quello noto, no, dell'uscita di Atlantia, Benetton da Autostrade. Allora, infatti io parlavo proprio prima del ruolo dei Benetton, che viene in qualche modo, appare sullo sfondo anche delle carte di oggi, dell'inchiesta di oggi. È un ruolo ancora, se vogliamo, sfumato, quindi probabilmente non ci sarà alla lunga un grave danno per i Benetton, anche perché dobbiamo dire che ai fini della trattativa noi abbiamo di fronte una rete autostradale che per colpa anche di queste carenze manutentive, necessita di interventi per 40 miliardi di euro, 20 miliardi solo sulla rete autostrade, e se deve subentrare lo Stato tramite la Cassa Depositi e Prestiti e altri investitori privati a cui bisogna garantire dei ritorni, questo default bisognerà pur ripagarlo, e non potendo, credo giuridicamente, configurare una richiesta di 20 miliardi di euro ai Benetton, molto probabilmente finirà che questi lavori verranno pagati alla fine in tariffa, cioè, cercheranno di farcene accorgere il meno possibile, però di questo stiamo parlando, e anche lo Stato quindi ha le mani legate da questo punto di vista. Grazie, grazie Maurizio Caprino, ancora una volta collega del Sole 24 Ore, per questo diciamo supplemento di spiegazioni sulla vicenda autostrade. Dopo la notizia di oggi, 6 misure cautelari importanti, pesanti nei confronti della società. Adesso invece un sguardo verso il pomeriggio sportivo, nell'attesa, Carlo Genta, della partita della nazionale di stasera e del gioco delle ASL. Sì, il gioco delle ASL, sì, l'attesa non è certo di quelle spasmodiche, che precedono, no? Una finale dei mondiali, insomma, perché l'Italia tra mille difficoltà, e con, ricordiamolo, anche il commissario tecnico che da casa guida in smart working questo gruppo, dato che Roberto Mancini è positivo, conta di tamponi permettendo, potrebbe essere in panchina magari contro la Polonia domenica a Reggio Emilia, e quella varrà per la Nations League. Quella partita, quella di stasera, è semplicemente un'amichevole a ostacoli, perché per trovare 19 giocatori che sono potuti andare in azzurro e 11 che praticamente in campo stasera contro l'Estonia, è stato uno slalom tra i net di varie ASL locali, e quindi sarà una nazionale abbastanza ingiudicabile, sperimentale, anche vediamo, sì, un po' sperimentale, con esperimenti molto creativi, diciamo così, per questa partita. Ci accontentiamo visti i tempi, sì, che corrono. Grazie Carlo, ti ritroviamo dopo il GR delle 14 naturalmente con tutti i convocati. Piccolo break e poi i giornali internazionali insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo.